Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora Nicoletta, oggi volevo dedicare un pensiero a tutti i lavoratori perché ho trovato questa bella notizia che è proprio... Una giornata speciale oggi. Sì, è una notizia proprio la cuore denari, per cui mi piaceva enfatizzarla perché è la giornata del Safe Day per la sicurezza sui luoghi di lavoro. E proprio in questo momento gli edili di CGIL e CISL UIL stanno dando vita ad un presidio a Montecitorio con la parola d'ordine basta morti sul lavoro. Pensa che i dirigenti sindacali delle organizzazioni principali sostengono che nei primi 4 mesi di quest'anno si sono verificati in seguito ad incidenti 184 morti, un quarto nei cantieri, con età spesso oltre i 55 anni. Per cui mi pareva carino appunto fare la ricordiamo un con pensiero. Grande piacere. Esatto, e adesso invece andiamo a tutte le altre notizie che come sempre tutte le mattine arricchiscono la nostra rassegna stampa Cuore Denari. Partiamo con la borsa, come sempre. Allora, era partita negativa, poi ha recuperato tutto e adesso riscende di nuovo. Abbiamo già una giornata ballerina. Beh, fa movimento, le fa anche bene, che dici? Aiuta! Esatto. Allora, Parigi perde l'1,42%, Francoforte meno 1,33%, Londra meno 1,17%, Milano meno 0,95%. Ci sono tanti argomenti all'ordine del giorno. Intanto l'orientamento delle banche centrali. Stamattina lo status quo della Banca Centrale del Giappone ha penalizzato fortemente il listino nipponico, che ha chiuso con un ribasso del 3,61%. Ieri abbiamo avuto anche la riunione della Banca Centrale Americana che ha fatto capire che non ha nessuna intenzione di riprendere a rialzare i tassi di interesse a breve, tutto rimandato presumibilmente alla seconda metà dell'anno. Ieri però su questa notizia in realtà il mercato americano non è stato negativo, anzi ha chiuso positivamente. Per quello che riguarda Piazza Affari, i migliori titoli sono Saipem, più 9%, brinda ai risultati della trimestrale, al contrario invece conti del trimestre totalmente bocciati per Tenaris, che sta perdendo 5 punti. Oggi il Tesoro ha in programma un'asta di titoli sul medio e lungo termine e dopo le 11 conosceremo i risultati. In agenda il collocamento di BTP a 5-10 anni e il CCT indicizzato appunto ai tassi europei per circa 7 miliardi e 750 milioni di euro. Tutti i temi di mercato saranno al centro della nostra rubrica del giovedì Investire informati, oggi con Pioneer Investment. Allora, Nicoletta, ce lo stanno facendo proprio sudare, perché c'è domani il Consiglio dei Ministri che approva il provvedimento sulle banche, quello che contiene anche i criteri per gli indennizzi agli obbligazionisti delle 4 banche in default salvate dal governo. Il provvedimento doveva arrivare a fine aprile, poi è slittato tutto, anzi a fine marzo, poi è slittato tutto, doveva arrivare all'inizio della settimana, questa... E adesso arriva venerdì, guarda, finché non vedo non credo. Intanto la Banca Popolare di Vicenza ha comunicato stamattina in una nota che ha proceduto ad una proroga del periodo di offerta delle proprie azioni. L'offerta si doveva chiudere domani, si doveva chiudere oggi, invece si chiude domani. Velocemente, occhio al tasso minimo sui mutui variabili. C'è una segnalazione fatta dalla Confconsumatori secondo la quale in alcuni casi sono stati applicati degli interessi da parte delle banche non allineati con le previsioni contrattuali. Il risultato in pratica è che chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile non ha beneficiato della continua diminuzione dei tassi di mercato. La denuncia appunto dell'Associazione dei Consumatori Confconsumatori ricorda come nei primi mesi dell'anno scorso si sia registrata, lo ricorderete, una forte diminuzione dei principali tassi del mercato interbancario, fra i quali l'Euribor, ricordiamolo che è quella a 3 mesi è negativo da molto tempo. Chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile doveva già da tempo pagare molto meno. In realtà per qualche sottoscrittore di mutuo le cose non sono andate così. Allora fate una verifica, cosa è successo alla vostra rata? Noi ne parliamo domani a Cuore Denari. Velocemente, ieri lo abbiamo preannunciato e sono stati presentati i risultati dell'ultima indagine Alma Laurea su profilo e condizione occupazionale dei laureati italiani. Dopo il tracollo degli anni della crisi diventa un po' più facile a quanto pare trovare lavoro, anche la retribuzione cresce leggermente. Parliamo ancora di numeri ben lontani dalla fase pre-crisi prima del 2008. Comunque ad un anno dal conseguimento della laurea lavora circa il 67% dei laureati triennali e il 70% dei magistrali. Io volevo segnalare anche che presto a Cuore Denari parleremo di lavoro sì a 360 gradi, ma cominceremo a parlare di chi sta cercando un impiego per la stagione estiva. E dopo i denari, spazio al cuore e alla musica, perché le note di Puccini, Verdi e Beethoven hanno a cuore il nostro cuore. Lo studio che porta la firma dei ricercatori dell'Università di Oxford conferma il potere rilassante della musica classica, che con il suo ritmo delicato ha il merito di rallentare la frequenza del battito cardiaco e di far abbassare la pressione arteriosa. Allora, se è vero che ascoltare musica fa bene alla salute, è meglio cominciare già in tenera età. Sempre più ricerche confermano che per sviluppare il cervello e migliorare la capacità cognitiva dei più piccoli, niente di meglio che tenerli sulle ginocchia e giocare con loro facendogli ascoltare musica. E a questo proposito vi segnaliamo dal nostro sito le puntate realizzate con la professoressa Daniela Perani, neuroscienziata all'Università San Raffaele di Milano, massima esperta delle applicazioni terapeutiche della musica. E se pensate di avere l'X Factor, sul nostro sito troverete anche un link di un'iniziativa molto curiosa del Comune di Milano. Esistono i geni della felicità, la conferma arriva dai ricercatori dell'Università di Amsterdam, che hanno analizzato il genoma di quasi 300.000 persone. La scoperta potrebbe aiutare a mettere a punto terapie per ridurre i livelli di ansia. E a proposito di felicità, l'Italia, secondo il rapporto mondiale della felicità 2016, è al 50° posto, quindi abbiamo margini di crescita. Ma che cos'è davvero la felicità? I ricercatori dell'Università di Harvard sono attualmente impegnati a capire che cosa ci rende davvero felici. Nel frattempo, un sondaggio realizzato in Inghilterra sottolinea che nella top 10 delle cose che ci fanno stare meglio c'è il calore del sole sul viso, i gesti di gentilezza e di educazione, come sentirsi rispondere grazie, ad esempio, oppure dormire con lenzuole fresche di bucato. E a proposito di dormire bene, con il nostro esperto tra poco parleremo di come passare una notte in pace con Morfeo, 800 24 00 24, per raccontarci quando e perché crollate dal sonno. Sembra che dormire sia facile, per chi sa come farlo sarà il tema del nostro approfondimento. E a proposito di sonno, la qualità del nostro riposo influenza anche il nostro lavoro, un tema che, come ci ha anticipato Deborah, ci sta particolarmente a cuore. Lo sottolineiamo oggi che è la giornata mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro. Per l'occasione il Ministero del Lavoro organizza diversi eventi in tutta Italia che mirano proprio a diffondere maggiore consapevolezza dei fattori che minacciano salute e sicurezza, non solo sui luoghi di lavoro ma anche in casa, in strada, a scuola, insomma per promuovere l'adozione di comportamenti più sicuri da parte di tutte. Tutte le informazioni utili sulla nostra pagina di Cuore Denari. La battuta d'arresto sull'aspettativa di vita è stato il dato più ripreso del rapporto Serva Salute, ma il dato più preoccupante, Deborah, in un'ottica, sì, come dici tu, di medio e lungo periodo, esatto, è la scarsa attenzione alla prevenzione, perché il nostro paese destina alla prevenzione il 4,1% della spesa sanitaria totale, percentuale, ahimè, che ci piazza tra gli ultimi posti d'Europa. Insomma, siamo gli ultimi della classe, no? Abbiamo paragonato ieri Osserva Salute a una sorta di pagella. Ma anche noi abbiamo le nostre responsabilità. Dall'indagine sembra che ci manchi la percezione del rischio e stiamo giocando con il fuoco. E questo modo di fare potrebbe tornarci indietro come un boomerang, non solo perché rischiamo la nostra salute, ma perché il Servizio Sanitario Nazionale dovrà poi occuparsi di trovare risorse per curare quelle malattie che non ha avuto la lungimiranza oppure le forze di prevenire o ridimensionare. Nell'attesa che i finanziamenti crescano, facciamo quindi la nostra parte, puntiamo sulla prevenzione, diventiamo, lo sentiamo ripetere tante volte, soggetti attivi della nostra salute. È un investimento alla portata di tutti. Deborah, come lo definiresti? Un investimento molto redditizio? Assolutamente sì. Zero rischi, solo guadagni? Solo guadagni, sì, infatti, tra l'altro neanche quei guadagni che vediamo adesso sui mercati, che sono veramente un po' elargiti con il contagocce, quei guadagni sono notevoli, direi. Allora, e questo lo sottolinea anche la donna di denari, ma ne parliamo anche con il dottor Andrea De Censi, che è direttore di oncologia medica all'ospedale Galliera di Genova e professore di oncologia alla Queen Mary di Londra. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Dottore, allora, noi abbiamo un aumento di incidenza dei tumori prevenibili, soprattutto alla mammella e al polmone per le donne, al colon retto per gli uomini. Questi sono i dati, no? Vorrei però io sottolineare la parola, l'aggettivo prevenibili, che significa che anche noi possiamo, anzi dobbiamo fare la nostra parte. Allora io partirei dai risultati di un suo studio pubblicato su una rivista prestigiosa di oncologia, che evidenzia che la cattiva alimentazione e il sovrappeso sono fattori di rischio per l'insorgenza del cancro. E infatti, se voi vedete anche questi dati dell'Osservatorio Salute, la riduzione dell'attesa di vita, che peraltro è piccolissima e va confermata, e poi ricordiamoci che gli italiani vivono più a lungo, è uno dei paesi più longevi del mondo, quindi non buttiamoci sempre la croce addosso. Però certamente il dato più forte che emerge è la relazione tra l'obesità, la scarsa attività fisica e l'aumento del rischio dei tumori. E questo è un dato più nuovo, si è sempre pensato all'obesità come un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, però le malattie cardiovascolari sotto gli 80 anni si stanno riducendo molto, soprattutto per quanto riguarda la mortalità, per i tumori molto meno, perché l'obesità, l'aumento dell'attività dell'insulina, che è l'ormone che regola lo zucchero nel sangue, l'insulina ha una forte attività di stimolo della proliferazione cellulare. Quindi le ultime tendenze della ricerca sono a ridurre soprattutto l'apporto degli zuccheri, dei carboidrati, tenere l'insulina bassa per più ore possibile durante la giornata per evitare di stimolare troppo le cellule ghiandolari o cosiddette epiteliali, da cui origina il 90% dei tumori umani. Ecco, questo è un dato molto forte, lo riprendiamo: come si fa a tenere bassa l'insulina, che è una sorta di benzina, di miccia, più a lungo durante la giornata, che questo rende le diete sicuramente più efficaci, ma questo è l'ultimo dei problemi, riduce soprattutto il rischio di ammalarsi di tumore. Ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico insieme al professor De Censi, a tra poco. Cuore e denari. Parliamo di prevenzione. Regola numero uno: tenere bassa l'insulina più a lungo possibile durante la giornata per ridurre il rischio di ammalarsi di tumore. Ne stiamo parlando col professor De Censi. Professore, non è difficile se impariamo a distribuire gli alimenti durante la giornata? Ci dà una dritta? Ma comunque in generale la parola chiave è ridurre i carboidrati, cioè la pasta, il pane, i dolci, tutte le cose buone della dieta anche mediterranea, che però purtroppo, soprattutto quando parliamo delle farine molto raffinate, hanno un alto indice glicemico e quindi inducono una risposta dell'insulina molto forte. Bisogna spostarsi sulle farine non lavorate, le farine, farsi il pane in casa è una cosa molto bella, prendendo veramente la farina integrale, la farina di Kamut, che hanno un indice glicemico più basso. Se possibile, magari a colazione ridurre l'apporto di questi carboidrati, a pranzo non mangiarli proprio, tipo un'insalata è perfetto, poi alla cena si può eventualmente alternare il pesce, la carne, i legumi, anche ogni tanto qualche piatto di pasta. La dieta deve essere una cosa gradevole, quindi poi ogni tanto bisogna anche sgarrare. Però come si fa a misurare i benefici? Ovviamente il peso rispetto all'altezza, bisogna calcolare, si trova su internet facilissimo il nostro rapporto di indice di massa corporea tra peso e altezza, deve stare sotto i 25, e la cosa più importante è la circonferenza vita, quindi deve stare sotto i 90 nella donna e sotto i 100 nell'uomo. La pancetta non va bene. La pancetta fa male perché riflette il grasso viscerale, quello bruno che è all'interno dell'addome, che produce fattori ormonali e di crescita, fattori infiammatori, si scatena tutto un quadro di effetti che si chiama insulinoresistenza e che porta appunto a un aumento della proliferazione cellulare, oltre a tutti gli effetti cardiovascolari sul diabete che sono più noti da tempo. Adesso e quindi si va verso anche un'unificazione dei fattori di rischio delle malattie croniche, cioè dei grandi killer dei paesi occidentali, che sono appunto legati alla dieta eccessiva e alla sedentarietà. oltre che al fumo, che rimane. Certo, il fumo rimane il big killer. Il numero uno dei killer. Professore, mentre noi impariamo a mangiare meno e meglio, voi state cercando di trovare il modo per tagliare il nutrimento alle cellule tumorali. Insomma, a noi mettete a dieta e alle cellule tumorali le affamate. Totalmente. Sì, cerchiamo, perché ormai in molti esperimenti di laboratorio si vede che la restrizione delle calorie, dell'energia alla cellula, disattiva la sua capacità di proliferare. Quindi si può usare il digiuno, tipo 24 ore di digiuno, per esempio una volta alla settimana. Poi ci sono degli studi molto interessanti sul ruolo del digiuno anche immediatamente prima del ciclo di chemioterapia. Sì. Sono studi in corso di cui non abbiamo ancora risultati, ma hanno una forte razionale scientifico. Ma poi abbiamo la possibilità anche con dei farmaci di mettere a digiuno la cellula. Per esempio la metformina, che è un antidiabetico, il più usato nella terapia del diabete in tutto il mondo, o l'aspirina, la grande aspirina, che ha 1000 effetti benefici, anche quello di mettere a dieta le cellule. E quindi noi stiamo provando a, per esempio, utilizzare la metformina o l'aspirina insieme ai chemioterapici, veicolati da delle nanoparticelle, che sono delle piccole metropolitane che portano i farmaci sulla cellula tumorale a dosi molto più alte, senza avere gli effetti collaterali della terapia data convenzionalmente in vena o per bocca, e lì sfruttare l'effetto di potenziamento reciproco di questi farmaci o degli integratori alimentari, anche la curcuma, ad esempio, che deriva, è una spezia, no? Deriva dal curry, ha un effetto che parrebbe antinfiammatorio, molto interessante per i tumori. Dottor professor De Censi, le leggo una domanda di un ascoltatore che va dritto al sodo. Ci avete martellato una vita con la dieta mediterranea, adesso ci dite di abolire pasta e pane, ma siete pazzi? Vorrei una spiegazione, professor De Censi. Questa fa il paio con chi scrive naturalmente una vita da malati per morire da sani. Esatto. Ma su questa battuta siamo ritornati più volte, perché noi vorremmo non morire non malati. Il primo, la dieta mediterranea, però bisogna intendersi, perché dieta mediterranea è soprattutto ricca di frutta, verdura, legumi e certi cereali. Non si è mai detto che si deve mangiare la pasta e il pane tutti i giorni a pranzo e a cena, quindi lì è una questione di quantità. Poi è chiaro che la scienza può anche cambiare in base ai risultati degli esperimenti, cioè rispetto sicuramente alla dieta americana piena di carne è meglio la dieta mediterranea, però comunque siccome l'obesità Il problema è che l'obesità sta aumentando. Italia, soprattutto al sud, quindi c'è qualcosa nella dieta mediterranea che va corretto. Ecco. Nel modo forse in cui noi interpretiamo erroneamente la dieta mediterranea. Certo, non è dieta mediterranea, vuol dire mangiare i prodotti freschi, mangiare molta più frutta e verdura, e i dati dicono che gli italiani mangiano pochissima frutta e verdura rispetto ai 5 piatti raccomandati al giorno, e qui meno del 10% lo fa, quindi questa è la dieta mediterranea in realtà. Ecco. Poi le cose possono cambiare, non è che siamo pazzi, ci adattiamo ai risultati della ricerca che evolve. Professore, noi stiamo facendo il punto sulla prevenzione, ma prima di salutarla, volendo fare un elenco dei fattori protettivi della nostra salute, a che posto collocherebbe il sonno? Ma è una domanda interessantissima. Il sonno, insomma, ci sono i dati sulle persone che lavorano di notte e che hanno un'alterazione anche lì di alcuni fattori ormonali. Ma volendo fare una classifica? No, io penso che il sonno sia un marcatore dello stress. Mm. E allora, se lei mi chiede il rapporto tra stress e cancro, io penso sia un territorio ancora inesplorato ma molto importante. Perché lo stress è difficile da studiare in termini scientifici, rigorosi, misurabili, ma ha un ruolo molto importante, secondo me, nella formazione anche del cancro. Professor De Cesi, su questo aspetto torneremo sicuramente presto. Intanto la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi della possibilità. Buona giornata. Noi andiamo a sentire il nostro GR. Anticipiamo che ci occuperemo proprio di sonno, perché dormire è facile se sai come fare, ma evidentemente qualcosa non torna se ci sono più di 12 milioni di italiani che non sanno che pesci prendere per prendere sonno. Ne parliamo subito del nostro GR. Intanto, se volete intervenire, prenotate i vostri interventi al nostro numero verde. Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati insieme. Dormire è facile se sai come fare, ma evidentemente stiamo sbagliando qualcosa se non riusciamo a dormire bene, se il numero degli insonni aumenta, se al mattino sempre più persone si svegliano stanche, irritabili, se fanno fatica a concentrarsi. A voi com'è andata questa notte? Abitualmente come dormite? Raccontatecelo, e se avete bisogno di consigli o ne avete qualcuno di molto efficace da suggerirci, restate con noi, perché in linea abbiamo il piacere di avere un grande esperto che ha deciso di raccogliere in un libro i segreti per dormire bene. Salutiamo il professor Francesco Peverini, specialista in medicina interna, direttore scientifico della Fondazione per la ricerca e la cura dei disturbi del sonno, ONLUS, e autore di È facile dormire se sai come farlo. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Intanto ci scusiamo per qualche minuto di ritardo, volevamo anticipare la sua intervista prima del GR con almeno una battuta, ma poi siamo andati un po' lunghe. Sono i limiti della diretta. Allora, professore, prima di spiegarci come fare per migliorare la qualità del nostro sonno, ci dica quali sono gli errori, le abitudini che lo rendono difficile. Sì, beh, la prima di tutte, cominciamo con l'età, essere adolescenti. Gli adolescenti tendono a dormire tardi e alzarsi tardi, ma questo fa parte della natura di quell'età, e invece vivono in una società che comprime un pochino questa loro naturale tendenza, vengono presi per fannulloni, quindi la mattina dovrebbero dormire fino alle 8:30, 9, devono invece alzarsi molto prima per andare a scuola. Sono già i primi soggetti che all'inizio dell'anno affronteranno un anno di privazione cronica di sonno. Poi però abbiamo tutte le alterazioni che possono condurre ad insonnia, come le allergie, può esserci il reflusso, può esserci qualcosa di importante come il lavoro a turni, possono esserci condizioni come magari lavorare più di 60 ore a settimana, e poi altre invece che sono legate a patologie come l'insufficienza respiratoria, le apnee notturne, Parkinson, tante condizioni che possono alterare il sonno a qualsiasi età. Professore, nel suo libro lei scrive a proposito di lavoro che c'è un aumento dei problemi di sonno, si dorme meno per lavorare di più, ma il paradosso è che meno si dorme meno si produce. Come conciliare questi due bisogni? Perché bisogna lavorare per vivere, ma per vivere bisogna dormire bene, e lo sottolineiamo ancora di più oggi in occasione della Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. Sì, lei pone giustamente il problema in questa dimensione. Ho ascoltato con attenzione il professor Cenzi, perché ha posto il problema delle prevenzioni, e lei ha fatto una bella domanda sul sonno. Quanto il sonno può essere coinvolto nella prevenzione oncologica, nella prevenzione cardiovascolare, che sono purtroppo le due cause di morte? È chiaro che poi la vita ha il suo arco, la sua durata, ma sia nell'uno che nell'altro caso, anche in oncologia, è molto importante la durata del sonno. Lei pensi che è uscito proprio un articolo in questi giorni in cui il tumore della mammella nelle infermiere studiate in Gran Bretagna è correlato a un eccesso di turni notturni. Quindi, pur non conoscendo le cause, i numeri ci dicono di porre attenzione a tante cose, ma naturalmente le soluzioni ci sono, perché poi interrompendo quei turni sembra che queste persone abbiano minore rischio e quindi sviluppino meno la patologia. Ora, nella giornata della prevenzione, oggi è anche la giornata della prevenzione per il lavoro dobbiamo immaginare che il sonno sia molto importante nella prevenzione degli incidenti del lavoro e negli incidenti alla guida per coloro che utilizzano gli automezzi per lavorare. E qui le cose importanti sono gli orari di lavoro eccessivamente lunghi, il lavoro notturno fisso, il lavoro con reperibilità, la guida per lunghi tratti, tutte condizioni che possono dare poi una serie di sintomi, e qui comincia un pochino il problema per il paziente, perché si trova ad affrontare sintomi che non sempre sono la sonnolenza, ma sono invece distraibilità, scarsa attenzione, irritabilità, conflittualità con i colleghi di lavoro, e che manifestano questi una privazione di sonno. Poi è difficile rivolgersi a qualcuno per risolvere queste cose che già non si è identificati come disturbo del sonno. Perché non li leghiamo necessariamente al sonno. Infatti nel suo libro lei fa notare che il 95% dei soggetti non solo non ha una diagnosi di disturbo del sonno, che è un dato abbastanza allarmante, ma non possiede proprio gli strumenti conoscitivi per correlare i sintomi che presenta ogni giorno a questo problema. È corretto? È vero, dottoressa. E c'è anche un altro dato, che una volta anche immaginato di avere un disturbo del sonno, poi è difficile per le persone che non hanno abitudine a discorrere di queste cose, a leggerne, correlare la carenza di sonno con una malattia cardiovascolare, con una patologia oncologica, proprio non immaginano. Il collega, che ho ascoltato con attenzione, ha introdotto l'argomento che può sembrare un pochino ostico dei fattori infiammatori, però in effetti la carenza di sonno muove delle molecole per noi cattive. E quindi dobbiamo immaginare, anche non capendo, poi ci andremo ad informare, però aver fiducia nei medici che dicono che sarà meglio dormire un certo numero di ore, perché esistono dei meccanismi precisi che portano poi ad un maggiore rischio cardiovascolare o oncologico, o comunque rischio di fare incidenti dei colpi di sonno o al lavoro per carenza di sonno. Questi sono elementi molto importanti su cui ho cercato di far riflettere i lettori di questo libro, proprio perché è scritto per loro, non è scritto per i medici, e quindi affinché possano magari confrontarsi, identificarsi in alcuni di questi passaggi, ma soprattutto apprendere piccoli segreti che spiegano come mai ci sono queste relazioni. E anche suggerimenti e consigli. Allora, noi abbiamo saccheggiato dal suo libro un test che proponiamo ai nostri ascoltatori, lo sentiamo. A che ora sei andato a dormire? E quando ti sei svegliato? Quanto tempo hai dormito? Com'è stata la qualità del sonno? Ti sei svegliato durante la notte? Quante volte? E per quanto tempo? Quanta caffeina hai consumato nella giornata? Quanto alcol hai consumato? C'è qualche stress emotivo che angoscia i tuoi pensieri? Hai assunto farmaci o altre sostanze? Quando? Che cosa hai mangiato e quando? Professor Peverini, in realtà sembra un po' un interrogatorio di terzo grado, no? Ma, veloce, sì. Ma fornisce indizi importanti che aiuteranno il lettore a raggiungere l'origine dei suoi problemi legati al sonno. Ci guidi un po', professore. Come insegna Marzullo, proviamo a mettere i nostri ascoltatori nella condizione di farsi una domanda e di darsi anche una risposta, no? Cosa ci dice il numero dei risvegli? Concordo su quello che ha detto. Vede, quelle domande che lei ha giustamente elencato così una dopo l'altra in maniera carina fanno parte della storia clinica. Quando un paziente viene in un ambulatorio del sonno deve un po' arrivare preparato, cioè deve conoscere quali saranno gli argomenti che lo riguardano, di cui parleremo. E quindi sono appunto quante volte ci si sveglia di notte, a che ora, se si fa tardi a prendere sonno, se ci si sveglia a mezzanotte o se ci si sveglia troppo presto al mattino. Questi sono i primi tre criteri per definire un'insonnia, no? Nella sua manifestazione principale, poi se sogna o meno, e poi andiamo a vedere quelle che sono le abitudini ambientali, quindi se dorme in un luogo impossibile, oppure altre abitudini che noi chiamiamo ambientali sono quelle alimentari, quindi caffeina, alcol, se ha assunto altre sostanze, oppure dei rimedi fai da te per cercare di rimediare alla sua insonnia. Altrimenti dobbiamo anche chiedere quali terapie faccia, perché a volte terapie che sono molto importanti per un determinato problema possono indurre dei disturbi o dare insonnia, ma non per questo vanno eliminate, devono essere semplicemente affrontate come tali insieme al medico che le ha prescritte, e quindi risolte nella maniera in cui possa poi il paziente dormire al meglio. Professore, nel suo libro lei dà tanti anche rimedi, suggerimenti pratici per aiutarci, no? A dormire bene, per aiutarci a capire come è facile, come può essere facile riposare bene, avere un riposo di buona qualità. Il sonno, lo sappiamo, è condizionato dal nostro stile di vita, da quello che mangiamo, da quanto ci muoviamo, dai pensieri che elaboriamo, dalle relazioni, dal nostro lavoro. Allora, è arrivato il momento della ricetta del fai così. Quindi partiamo dall'alimentazione. Ci sono dei cibi salvasonno, professore, che possiamo magari suggerire? Beh, ci sono delle situazioni per cui noi abbiamo una quantità di cibi che possono favorire e altri favorire il sonno. Ad esempio l'alcol, ovvero il vino, che in Italia è un alimento, non è una bevanda da proibire, può essere assunto nella quantità di un calice la sera perché aumenta la propensione al sonno, sempre che non sia controindicato per altre situazioni mediche. È chiaro che una maggiore quantità di vino invece può dare più propensione al sonno, ma magari peggiorare l'ossamento da panè e quindi diventa controindicata. Però poi ci sono alimenti che ad esempio aumentano la quantità di melatonina. Piccole quantità di una particolare molecola che noi chiamiamo aminoacidi, e si chiama triptofano, che è contenuta nel latte, ed è un mattone per produrre delle sostanze a noi molto utili, come la serotonina, che ci rende leggermente più tranquilli durante la giornata, e la melatonina, che aumenta la propensione al sonno la sera. E queste molecole vengono prodotte meglio se noi mangiamo ad esempio negli snack fra un pasto e l'altro, invece di andare al bar e prendere un cornetto o qualche cosa del genere, possiamo magari sgranocchiare delle mandorle, delle noci, e queste contengono appunto delle quantità importanti di triptofano. La sera, quando la vecchia abitudine della nonna, era molto felice perché il latte contiene triptofano, quindi se la sera non riusciamo a prendere sonno, una tazza di latte tiepido. Per chi consuma il latte, in alternativa? Sì, per chi consuma il latte, sì, altrimenti c'è il riso, il latte di riso, perché anche il riso contiene triptofano. Perfetto. Attività fisica, meglio evitare di farla prima di dormire, ma chi si muove dorme meglio. Ci sono delle ricerche molto interessanti su questo aspetto, professore. È vero, è molto informata. L'attività fisica, purché non venga fatta almeno 3 ore prima di andare a dormire, altrimenti sì, l'eccitazione corticale, cioè l'attivazione del nostro sistema nervoso, è tale che poi tarderemo a prendere sonno. Quindi almeno dobbiamo lasciar passare un lasso di tre ore di tempo. Parla prima di cena, questo, ecco, lo dico a Deborah, che è molto attiva. Sì, esatto. Quindi mi raccomando, volta sforo un po' i termini poi consentiti. L'adrenalina a 1000, non dormo, telefono a te, ti mando un sacco di messaggi. Qualche mandorlina. Del lavoro abbiamo già in parte parlato. Vuole aggiungere un consiglio? Allora, un consiglio è informarsi. Informarsi tanto, non aver paura, non assumere sostanze nella speranza che funzionino per più di un periodo di 3-4 settimane, perché io vedo purtroppo persone che assumono tante erbe, tanti prodotti, senza fare i nomi, magari per 2-3 anni, sapendo che non funzionano, per paura di assumere magari un farmaco, ed invece la cura poteva essere solo un cambio di abitudini. Quindi attenzione, informarsi. Allora, molte domande, cuoredenari@radio24.it, chiederemo al professor Peverini di darci una risposta e naturalmente lo ringraziamo, in bocca grazie al lupo per voi, questo libro che grazie aiuterà molti italiani a fare pace con Morfeo e quindi avere un sonno di qualità. Grazie professore, bene, buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Però, insomma, il professor Peverini ha sottolineato con forza il concetto dell'informarsi, Nicoletta. E certo. Senza volerlo, mi ha dato il solito assist. Perché mi scegli sempre questa parola che è piena di trovamene un'altra, mamma. Mi ha agevolato il cambio di argomento, diciamo così. Ecco. Allora, abbiamo indubbiamente meno volatilità di qualche settimana fa sui mercati finanziari. Eh sì, però attenzione, anche perché questi momenti positivi li abbiamo visti anche in altre circostanze, poi erano sempre forieri di cattive notizie e in realtà di un ritorno di volatilità. E cos'è successo? Che sì, saremo anche un pochino più tranquilli, però non è che sia cambiato lo scenario di fondo rispetto a gennaio o febbraio, quando abbiamo visto invece davvero le montagne russe sui mercati finanziari internazionali.